A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, ma quel dente giallo schifoso di merda che c'hai in bocca, ma perché non te lo fai sistemare? Paga lo studentista che fai schifo, sistema, cazzo! Cioè Parenzo che parla di moda, Parenzo che commenta l'abbigliamento è una cosa fuori da normale. Pare, ma toglimi una curiosità, ma te la mattina chi ti veste? Ho appena bevuto 4 bicchieri di prosecco di Valdobbiadene, dovete cominciare subito perché ve lo giuro che investo qualcuno. Come sapete, caro Parenzo, un pensionato si è tolto la vita per la vicenda delle banche. Iniziamo così con un tema molto serio oggi, sì. Con un tema molto pesante, anche drammatico se vogliamo. Nei giorni scorsi, è inutile commentare questa roba qua, si è tolto la vita perché non poteva sopportare l'idea di aver perso oltre 100.000 euro. 110.000 euro, 110.000. Tutti i suoi risparmi. Tutti i suoi risparmi, la colpa del governo, la colpa delle banche, la discussione ormai da giorni, sento queste discussioni, non ne posso più, naturalmente. Se volete intervenire su questo intervenite, come è normale che sia. Però vi voglio far notare una cosa: nei giorni scorsi abbiamo saputo che il vice segretario del Partito Democratico, nonché governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha perso 18.000 euro. Da come è stata messa la cosa sembrava, ho perso anch'io 18.000 euro, sembrava che avesse perso 18.000 euro nello stesso modo in cui altre persone, pensionati eccetera eccetera, hanno perso 18.000 euro perché cioè aveva delle obbligazioni di quel tipo. Invece poi si viene a scoprire dopo qualche giorno, perché lo ha detto anche lei, che semplicemente ha investito in alcuni titoli di banche venete, e poi quei titoli oggi valgono di meno. Cioè una cosa normale che accade a molti risparmiatori, magari. Perché anche chi gioca in borsa, dice. Sì, perché ha delle azioni. Io non gioco in borsa, non ho azioni, nemmeno io. Per cui cioè, ho solo quelle del Sole 24 Ore, credo. Ma insomma, hai azioni del Sole 24 Ore? Ma sì, perché l'hanno date a tutti a un certo punto. Non so nemmeno che fine hanno fatto queste azioni. Hai azioni stock del Sole 24 option, Ore. Ma quale stock options? Ma tredicesima, quattordicesima. Ma quando mai? Come? Tredicesima, quattordicesima. Senti un attimo, senti una cosa. Allora, la cosa da... stai in buca di tre. Ha voglia, guarda, in buca di tre. A Natale chissà quanti regali farai con la tredicesima. Regali scusa. Sempre pochissimi, ricordati. Regali sempre molto pochi. Allora, Serracchiani non ha perso i soldi, chiariamolo a tutti. Il vice segretario del PD non ha perso i soldi come gli altri. Allora, è inutile raccontare questa cosa. Ho perso i soldi perché ero azionista di una. Cioè, perché avevo le azioni di una banca. E chi se ne frega? Non c'entra niente un con conto la. È una truffa, un ma conto non c'entra nulla. Borsa, non c'entra certo. Niente. E sono 17-18.000 euro e ho semplicemente acquistato azioni di una banca, la Popolare di Vicenza. E quindi diciamo la mia è una situazione diversa rispetto a quella delle quattro banche. E la Popolare di Vicenza, come altre banche del territorio del Triveneto, hanno qualche problema. Sostanzialmente non vale, quelle azioni non valgono più quanto, per quanto le ho acquistate. Allora, senti l'inviato di Quinta Colonna ieri, mitico Poletti, il tuo amico Poletti. Come combatte il vecchio Poletti. Senti cosa dice, Serracchiani, che ha detto sono furiosa perché ci ho smenato anch'io 18.000 euro. Allora io ho detto, ho pensato tra me e me, tesoro, 18.000 euro te li fai in due mesi, invece quei pensionati là se li sono fatti in una vita di sacrifici. Poletti, subito populismo al massimo livello. Linguaggio, ti piace adesso il linguaggio crudo? No, ma non mi piace smenato, perché... Smenato, no, no, cioè... te li rifai in due mesi, Cocca. Te li rifai in due mesi, ma Cocca, quei soldi. Allora, però bisogna dire una cosa. Perché hai detto quella roba lì? Cioè, perché la Serracchiani ha detto quella roba? No, che non c'entra una mazza. Ma forse intendeva dire, so anch'io cosa vuol dire perdere dei soldi quando li hai investiti. Ma non vuol dire niente, lei ha investito, senso, lei ha investito però, una parte residuale dei suoi soldi, probabilmente, 18.000 no, euro. Ma è residuale o no? Ma sono diversi i casi. È come averli messi in delle azioni che adesso valgono meno, non c'entra niente con la vicenda delle obbligazioni di questi pensionati. Nulla, zero, non lo dovresti nemmeno dire, perché altrimenti ti vuoi mettere sullo stesso piano. Io quando ho letto l'altro giorno l'intervista che ha fatto Telese su Libero lunedì, ho pensato, cazzo, la Serracchiani aveva delle obbligazioni uguali a quelle dei pensionati, dunque sì, è stata fregata come quella? No, perché da quello si capiva, capito? Dai, sì, sì, chiaro, chiaro. Ah, a proposito di Telese. L'ottimo Telese. Grande, ho meno di 120.000 euro sul conto corrente. Cioè, lui lo dice come se... L'ha detto ieri sera, aspetta, ti faccio sentire l'audio. Ah, cioè, Matrix l'aveva detto. Sì, l'aveva detto. Ma perché l'ha detto? Ma che cazzo, si parlava di queste robe qui? Dice, a me non può capitare perché ho questi soldi qui, dunque non li investo. Cioè, questo voleva dire, no? Però non è che sono pochi quei soldi, comunque. Ho meno di 120.000 come se fosse una miseria, no? No, come giacenza sul conto. No, dice. No, ma che giacenza, cazzo? Meno di 120.000 euro, punto e basta. È la giacenza sul conto, cioè la liquidità sul conto. Si è chiama il giacenza. Conto, ho 120.000 euro. Davide, è il conto corrente, i soldi, giacenza, cazzo. Sul ma conto, che cazzo, certo, vuol dire giacenza? Giacenza è la liquidità, dai, su, a tua disposizione. Ma sono i soldi che ha, dai. La liquidità, beh, no, può essere che tu li abbia investiti anche. Ma mi dice di no. Io ho capito una cosa, che se c'è, proprio se va male, prelevano dei correntisti sopra i 120.000 euro, quindi sto tranquillo. Voci dai... Ah no, ha detto una roba diversa però. Dunque sto tranquillo, meno di 120.000 euro. Voci appunto, dai truffati. Non sa quanto. Voci dai truffati. Meno di 120.000, voci dai truffati, che non è poco, eh. No, ma perché era relativo a quella norma, a quel prelievo? Diritto se ne sono appropriati, gli sbagli degli altri li devo pagare io, perché basta, non c'è altre parole, li posso chiamare solo là. Mi hanno detto che i miei titoli erano carta straccia e me l'avevano sempre dati per sicuri. Che avevo 16.000 euro non esistono più. L'unica cosa che mi hanno detto, anche io non ho nemmeno reagito, perché è come avere una coltellata, diciamo. Vabbè, allora, la regione Lombardia, David, ha deciso di vietare, cosa sì, che è già sì, vietata, sì, il volto coperto, di entrare col volto coperto negli ospedali e negli edifici pubblici della regione Lombardia. Allora, io dico una cosa, cari ragazzi, va bene la propaganda politica? Spot. No, ma va tutto bene la propaganda sì, politica, sì, per carità, guadagnare fa parte del gioco. Sì. Però è già vietato, cioè se tu oggi entri in un ospedale con, come dire, con il volto coperto, ti fermano, ma anche per strada non ci puoi andare. Sì, ma anche se adesso diciamo, ci passano sopra, non è che arriva la regione Lombardia e decide che bisogna fermare le persone. I funzionari, che spesso sono dei vecchi panzoni fuori dagli uffici pubblici della regione Lombardia, ti fermano. No, panzoni, ma è così, no, spesso sono così. Questo sono Brunetta li disegnava. Brunetta diceva così. Sì, d'accordo, però. Quando era ministro della funzione pubblica. Sì, lui poi non è magro, Brunetta, tra l'altro. Diceva, questi panzoni che stanno lì, battono con il computer, non fanno niente, sì, non capiscono. Ricordo. Comunque, i tornelli. Abbiamo messo i tornelli così non passano grassi. È una cosa oggettivamente senza senso. Devo dire la verità, totalmente senza senso. Fare una disposizione per dire non bisogna entrare, lo sappiamo già, non bisogna. È uno spot, fine. È uno spot, però ci sta lo spot. È lo spot per politica. Per carità, ma è uno spot. È tornato il tuo amico Sheikh Nur, il tuo amico di Padova, Sheikh Nur. Ali Sheikh Nur, bravo. Sheikh Nur è un somalo musulmano. Fermi, tutti, vedo Barisoni su Sky TG24. Che si incazza e dice: chi se ne frega, si incazza e dice: smettetela di offendere le religioni altrui. Stiamo cominciando a svegliarci. Bravo. Sheikh Nur. Sheikh Nur, non è uguale, che cazzo me ne frega. Smettetela con questo linguaggio per cavalcare il malcontento e offendere le regioni altrui. Perché noi ci stiamo cominciando a svegliarci, perché a furia di prenderli non vogliamo più prenderli. Sheikh Il traffico è il problema. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, io ancora non mi tolgo dalla testa due cose, Parenzo, mi rivolgo soprattutto a te, due cose uscite fuori dalla puntata di ieri. Una è la vicenda del prete condannato per atti di pedofilia, sì, sì, nel 1991, adesso sotto indagine per altre cose, anche se è difeso da una parte dei suoi parrocchiani che vogliono che rimanga nella parrocchia di un piccolo paese in provincia di Savona. Cosa incredibile, incredibile, sì. Ne parleremo più avanti. L'altra storia pazzesca è quella del ladro morto mentre rubava a San Donato in una oasi ecologica, cioè entra dentro un cassonetto, cerca di rubare del materiale dentro quel cassonetto. È la terza storia pazzesca. Aspetta, rubava a San Donato e adesso è morto e adesso chiede i danni, sì, perché sostiene la famiglia di questo signore che il cassonetto era difettoso. Il cassonetto, che però non è un cassonetto, è un enorme container con un pesantissimo da aprire. Sono entrati là, cercavano di rubare, questo è rimasto incastrato, mezzo decapitato quasi, e è morto. Sentiamo l'avvocato di questo signore, che si chiama, credo, Cornaglia, come diavolo si chiama? Davide Cornalba, mi dicono, Cornalba. Sì, pronto? Avvocato? Sì. Sono Cruciani, come sta? Bene, mi dica, sono Cruciani. Senta, avvocato, io ho un dubbio, o lei è un genio, oppure cerca così di tirare fuori qualche quattrino da questa... Un genio assoluto. Da questa azienda qua per la storia del cassonetto. Perché non si può definire ladro questo signore? Perché non è provato che questo stesse rubando. E che stava facendo, scusi, in quel cassonetto? Ah, non so. Ma come non lo sa? Là si va a rubare il rame. Non lo so, di solito si va a rubare dove c'è qualcosa di prezioso. Beh, il rame. Ma non era immondizia, c'era il rame. Nel caso non è stato dimostrato che fosse ladro questo signore. Beh, avrà avuto dei precedenti questo signore, no? Mi risulta incensurato, francamente. Sì, vabbè, comunque. Qui c'è un procedimento contro ignoti, mi sembra in fase di chiusura di indagini, nell'ambito del quale hanno accertato il malfunzionamento del cassonetto. Ma non mi risulta che hanno accertato una cosa del genere? Sì. Cioè, sì, questi cassonetti erano difettosi? Era difettoso non questo cassonetto, quel cassonetto in particolare aveva un sistema di chiusura difettoso, per cui una delle ipotesi che fanno gli ingegneri che hanno esaminato il cassonetto è quello che il cassonetto fosse difettoso. Scusi, ma questo signore romeno, mi sembra, no? Per carità, nulla contro i romeni, era Rom, no? Penso che fosse di origine Rom. Ma come pensa? O lo è o non lo è? Comunque un terzo dei romeni lo sono, più o meno. È Rom, allora va bene. E cosa faceva dentro il cassonetto, secondo lei? No, una curiosità, avvocato. Cosa faceva dentro il cassonetto? Sì. È una domanda triste, la risposta è altrettanto, bisognerebbe veramente poterlo chiedere a lui. Ma no, ma non è questo, era andato lì a rubare, caro avvocato, io per carità, lei è un genio, però... Non ritengo che stesse rubando. No, e che stava facendo? Era in gita di piacere dentro quel cassonetto. Abbiamo una persona morta da una parte e un cassonetto rotto dall'altra. Poi lascio a chi ascolta giudicare se far pendere la bilancia dalla parte del cassonetto rotto. Io direi, abbiamo un signore, direi un'altra cosa, c'era un signore che stava cercando di rubare del materiale dentro quel cassonetto, chiamiamolo materiale, cassonetto, insieme rifiuti, ad altre persone. Rifiuti. rame, il famosissimo rame dentro quel cassonetto. Ma se qualcuno l'ha portato nel cassonetto, però vuol dire che non valeva niente, e uscendo da quel cassonetto succede, amico mio, e rimane, però, tac. Il fatto che lui stesse rubando del rame è un'illazione sua, probabilmente anche fondata, ma che nulla sottrae al malfunzionamento del cassonetto. Ma quella non è nemmeno provato. Quanti soldi ha chiesto? Ha chiesto di risarcimento lei? Adesso le rispondo. Chiunque avrebbe potuto incorrere in quell'insidia in cui è in corso. Cioè, poteva capitare anche a me, dice lei? poteva, forse le ha salvato la vita, dottor Cruciani, e lei non... Ma, avvocato, io non vado di notte, faccio tante cose di notte, guardi, anche no, non particolarmente, fosse... non particolarmente, no, come dire, sane, anche non particolarmente sane, potremmo dire, ma le assicuro che io dentro un cassonetto a prendere del materiale non ci vado. No, ma magari ci sarebbe andato di giorno a depositarlo, è una cosa che poteva essere raggiunta da chiunque. Raggiunta, sì, scavalcando delle recinzioni. Scavalcando delle recinzioni, scavalcando delle recinzioni. Scandola in ora notturna, ma in ora di un... ma di che stiamo... In ogni caso, una nota poteva essere rimasto aperto, dice la perizia, anche il cancello, sì, perché stavano pure facendo delle operazioni di deposito e quindi non è detto... Perizia vostra, naturalmente, perizia vostra. Perizia del tribunale. Vabbè, ma il risarcimento quanto ha chiesto lei, avvocato? Allora, non l'ho ancora quantificato, perché siamo ancora in una fase abbastanza... Ma io lo so già, me l'hanno detto, lei ha chiesto 300.000 euro, più o meno. Allora, non ho chiesto 300.000 euro perché dipende dall'asse ereditario, nel senso che pure più è numerosa la famiglia e più sono tanti gli... E quante persone sono in questa famiglia? Allora, ci sono, adesso non ricordo perché... Più o meno una decina, tanto quelli sono sempre tantissimi. Tra l'altro lei mi porta fortuna perché da quando mi ha chiamato si è sciolto il traffico. Lo vede? Quindi vincerà la causa anche. È già una cosa positiva. Se mi continua a chiamare, anche magari quando sto vicino alla sentenza. Vabbè, insomma, io non ho capito. Quanto vogliono questi qua, questi familiari? Allora, se lo paragoniamo al danno da perdita del rapporto parentale, che è da sinistro stradale, siamo nel range che ha detto lei. 300.000. Dipende, però. Cioè lei ha tentato di rubare qualcosa dentro, 300.000 euro da un'azienda, ma siamo alla follia, dai. Insomma. Non da un'azienda, se l'azienda ha avuto... Dall'assicurazione, quello che è, dai. Per il malfunzionamento dei propri mezzi, dall'assicurazione. Va bene, avvocato, non le auguro buona fortuna, non le auguro buona fortuna, perché per me è una cosa senza senso. Non mi auguro, però si ricordi sempre di quella famosa bilancia, sì, dove è vero che il cassonetto pesa di più dal punto di vista fisico, ma pesa meno dal punto di vista sostanziale. Perché c'è il cassonetto e dall'altra parte il morto. E dall'altra parte il morto. Sì. Allora, il peso del cassonetto è di più dal punto di vista fisico, ma lascio giudicare chi ci ascolta se è di più dal punto di vista sostanziale. La gente che ascolta di quello morto, le devo dire la verità, non gliene può fregare di meno. Beh, questo glielo dico. Probabilmente è così. Probabilmente. Grazie, avvocato, arrivederci. Arrivederci. Ma tu ti rendi conto che in Italia è possibile fare causa perché un ladro rimane impigliato e quasi con la testa mozzata dentro un cassonetto? E abbiamo saputo adesso dalle parole dell'avvocato che questo sì, perché bisogna definirlo ladro in fin dei conti. No, vabbè, ma la cosa interessante è che ruba in un cassonetto, perché se tu butti una cosa vuol dire che non la vuoi più. Ma no? Non era un cassonetto normale dell'immondizia, era i cassoni dove dentro ci sono dei residui di rame e tutto, non è un cassonetto normale, pesa 200 kg. Dove va a finire? Rubano, questi sono dei ladri. Se uno muore mentre fa un furto, dove va? Chi se ne frega? Si può dire chi se ne frega o no? Tu invece sei lì, dice: beh, è morto, è morto. Chi se ne frega? Sicuramente la vita di una persona vale più di un cassonetto. Dai, su, ragazzi, dobbiamo dare la linea al giornale radio. Dai, che cazzo c'entra il cassonetto? Adesso il paragone non è il cassonetto e il morto. Dai, su, giornale radio. La zanzara è come le donne. Alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è, ti manca. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati... è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Non voglio scendere al suo livello, Cruciani, non voglio scendere al suo livello, se lo lasci dire. È una vergogna quello che fa lei. Ma il vero grande protagonista indiscusso della giornata di ieri, caro Parenzo, con strascichi sulle cronache locali. Tutti noi ci siamo interrogati, ma è vero o è falso Mario da Bergamo? Allora, Mario da Bergamo mi hanno chiamato tutti, caro Parenzo, tutti mi hanno chiamato per sapere, ma si può credere a Mario da Bergamo? Si può credere a Mario da Bergamo? Questo è il mio responso. E beh, questi, peraltro stanno facendo sì. Una commissione parlamentare d'inchiesta. Ecco, l'unica cosa che non bisogna fare in questi casi, oggi ho sentito a proposito delle banche. Commissione parlamentare. A proposito delle banche, della vicenda delle banche, che è molto più serio ovviamente di Mario da Bergamo, anche se è una questione serissima, la prostituzione di una figlia in casa è una cosa molto molto seria. Ho sentito che qualcuno dice bisogna fare una commissione Forza Italia 5 Stelle, anche signor Zanetti una cosa di Scelta Civica. Patetica, patetica. Le commissioni d'inchiesta oggi, ma non quasi sempre così, non servono a un cazzo. Diciamolo, diciamolo chiaramente, non ma lo possiamo non lo so, dire. In passato no, non servono a niente. Non è vero, dipende. Dai, dai, dipende, su, non dipende, mi puoi ma dire. Dipende da quale commissione. No, ma non mi puoi essere moderato su questa roba qua. No, sei non sei diventato democristiano, cazzo. Ma non c'è democristiano. Ma non servono a niente le commissioni d'inchiesta. Caso, c'è la magistratura, Moro, c'è la magistratura, dai. No, su. Ma scusami, io valuto caso per caso. Se fare una commissione d'inchiesta su questa roba qui del perché chi doveva. Non c'è nessun senso. Non ha senso. Altre commissioni hanno un senso. Quella sui rifiuti, ad esempio, non ha un senso. Quella, non no. ha senso. Non ha senso. Ho appena chiesto in commissione bilancio, che sta discutendo la legge di stabilità, una riflessione al governo su una commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di vigilanza sulle nostre banche. Capito, Parenzo? In questo caso secondo me ha torto. Come torto? Ha ragione, allora la commissione d'inchiesta vuoi? No, ti ho detto che va lavorato caso per caso, ho detto in questo caso qui non ha senso la commissione d'inchiesta. Allora, però dicevamo del caso molto più interessante di Mario da Bergamo, perché dobbiamo. Cioè, qualche messaggio che ci viene dall'etere al 393-71-71-701. Vorrei avere il numero della signorina Maria, figlia del signor Mario, la prostituta che opera, che se non sbaglio nella Bergamasca. Facciamo che voi mi date il numero, io la vado a provare, poi gli porto il resoconto, vi saluto Mario, registro qualcosa. Fare fatto? Questo è il signore qua di Bergamo, io sono di Bergamo, vorrei che desse l'indirizzo. Allora, parliamo un attimo del signor Mario di ieri con la figlia. Io non sono mai andato a puttane nella mia vita, ho 25 anni. Ma mi interessa sapere non la tariffa della figlia, ma la tariffa per andare a conoscere il signor Mario, perché è quello che mi interessa. Stringergli la mano, abbracciarlo e salutare la Teresa, fondamentale. Ed eccolo in carne e ossa, da ieri, Mario da Bergamo, per chi non l'avesse ascoltato. Mario, provincia di Bergamo. Vai, vai, Mario. Dimmi, Mario. Sono Mario, no, ci volevo dire quella storia lì del prostituto che voi parlate sempre in trasmissione, che c'è le puttane, le trasmissioni. Va bene, io sì. Ce n'ho una a io ce n'ho una a casa che adesso mi sono anche stufato, ma di questa cosa. Cioè, che cosa qua. Chi hai a una casa? Una prostituta aveva di grazia a casa? La Mercetta, la mia figlia, la Maria. Sono capito. Hai una figlia, prostituta? Esatto, esattamente. Adesso. Anche la sua mamma non è che era poi tanto, però vabbè. Si mette qua, la sta mettendo nel coma, lei è molto esame. Sì, ma io rarissima, perché una ragazza che lei adesso lei a Natale mi fa un sacco di regali, tutta contenta. Perché lei ci vuole bene, se si dà il papà, la mamma, i nonni, ci vuole bene. Le prostitute non è che sono così, sono delle persone. E lei non è in imbarazzo, no, mi pare bene, quindi tutto bene. No, ci mancherebbe anche quella. Siccome la Maria vive con me, con i suoi genitori, con papà e la mamma, no? Non è che noi abbiamo una casa grandissima, noi abbiamo un appartamento con due stanze, il bagno, la cucina, il soggiorno, basta, finito lì. Dopo c'è un terrazzino che guardi giù in via Italia e basta, non c'è più niente. Allora, quella ragazza qua, poverina, lei lavora a casa, non è che lavora per la strada. Che prima lei faceva la pettinatrice, no? La pettinatrice, sì. La parrucchiera praticamente. E poi? Ecco, e dopo poi mentre si vede che quei signori lì, forse è tutta una squadra di puttane, perché lì ho conosciuto quei signori lì dalla parrucchiera e si sono messi in testa che loro devono fare la puttana che guadagnano di più. Io non ci ho detto. Ma vedi che te guadagnerei anche di più. Però porca bestia, fare la parrucchiera è un bel mestiere, porti a casa del soldini le raccontate, no. Il problema è che questi arrivano su gli uomini in casa mia, a me mi gira l'ostia, perché ti girano i coglioni, giustamente. Per forza, scusi, a lei se ci arriva su un marocchino che si siede lì sul suo divano, a lei ci piace, ma non solo i marocchini, ne arriva solo chi te ru, ma porca bestia. In tutto questo tua moglie che dice? No, ma lei è contenta perché lei ci vuole bene a sua figlia. Tutti contenti. Questa casa dire... quanto è grande questa casa? Poco, ha detto. Sarà 80 metri, ce l'ho detto, hai due stanze, il bagno, due stanze, cucina. E questi si vanno pure a pulire in bagno, i clienti? Ma per forza, magari fa cos'è poi? Beh, pensa che sfiga, caro Parenzo, i nipoti del futuro, no, sto parlando di un'altra cosa, eh. Pensa che sfiga, i nipoti del futuro con la nonna vegana. Riccardo da Roma, vai. Non c'è. Maria Rosa La Spezia, dai. Sì, eccomi. Vai. Pronto? Dimmi. Buonasera, guarda, io sono un po' in un altro pianeta perché voi siete modernissimi, io ho un'età, no? Non ho chiamato per l'indirizzo del Mario, io vorrei sapere, sono rimasta allibita, basita, diciamo pietrificata a sentire quello che ha detto l'avvocato che difende quel poverino morto dentro a quel cassonetto, eccetera, no? Voglio dire, ma questo avvocato... Si ascolta quello che dice, non, ma l'avvocato, no? Che deve fare? Deve difendere la famiglia di questo qui. Cosa? Se ci dà l'indirizzo di dove sono questi cassonetti, così magari ti fa, ti butto là, proprio per dirla che non so più cosa dire di fronte a certi avvenimenti. Dimmi. Allora, che ci dà l'indirizzo, così magari i familiari di quelli che sono rimasti, diciamo, frodati con queste banche, eccetera, vanno dentro al cassonetto e poi si fanno rimborsare 300.000 euro. Scusa. Non ho capito la provocazione, no, ma dice, vabbè, va bene. Dove sono questi cassonetti? Mi faccio male dentro un cassonetto e poi chiedo il rimborso. Questo due storie diverse. Ma ti dico, nulla. Ma roba da matti. Roba da matti, Maria Rosa. Riccardo, Roma, vai. Buonasera, Cruciani, buonasera, Parenzo. No, io volevo dire una cosa, però. A me io non mi interessa. Ho sempre un brivido quando sento Riccardo da Roma. Spero, sì, anch'io pensavo. Temevo. Io spero sempre. No, sono nuovo, è la prima volta che parliamo. Vabbè, dimmi. Meglio. Io a me non mi importa niente del sentimentalismo, la vita del ladro, no? Anche a me non me ne può fregare. A Parenzo, sì, vabbè, è fatto così. Che ma non è sentimentalismo, non c'è nessun sentimentalismo. Beh, sì, un po' sì. Nessuno è la vita umana rispetto a un cassonetto, però. Vabbè. Ma il risarcimento che chiedono è una conseguenza di una cosa importante che si trascura spesso, cioè che è l'accertamento del fatto, nel senso che non si può dire siccome un ladro non mi importa niente. Per esempio, il cassonetto vabbè è un conto, ma se io tengo in casa una tigre, e qui andiamo pure alle pistole, ma il discorso è lungo, e il ladro entra e la tigre lo sbrana, invece se invito Parenzo a prendere un aperitivo... Ovviamente mi prendo. No, amico mio, qua ti sbagli. Quando uno entra dentro una casa per rubare, qualsiasi cosa accada dentro quella casa, se io faccio scattare le tagliole che ti tranciano le gambe, beh, amico mio, devo dire la verità, chi se ne frega? Sotto processo, finisce. Ma non lo so se finisce sotto processo, ma direi, dovresti ma essere assolto. Se io metto delle tagliole contro i ladri, delle tagliole. È anche vero che in questi giorni cosa è successo? Che un cacciatore, per paura che dentro una macchina ci fossero dei ladri, in realtà c'erano due fidanzati, ha sparato e ha quasi ammazzato. Peraltro era marocchino questo qua, un ragazzo, però questo è un altro discorso. Quello è un cacciatore che è stato preso così da un momento di paura, ha sparato e pagherà per questa cosa. Ma se tu proteggi casa tua in tutti i modi, ma non mettendo... lo puoi proteggere con la tigre, e questo è il punto. Beh, quello è un altro discorso. Se tu metti la tigre dentro casa e non potevi avere la tigre, quella è un'altra cosa. Ho capito, ma il cassonetto che c'entra, Riccardo? Dai, su. No, ma è portato alle estreme conseguenze. Ma non è portato alle estreme conseguenze, è un altro discorso. Se uno prende un cannone che non può avere dentro casa, entra qualcuno e spara col cannone, certo pagherà perché non può usare quell'arma lì. Stiamo parlando di difesa della proprietà in tutti i modi possibili, ovviamente legali. Giovanni, provincia di Milano, dai. Vai, Giovanni. Pronto? Dimmi, Giovanni, dimmi. La Serracchiani perché quando parla non apre quella cazzo di bocca? In che perché senso? L'apre la bocca per parlare, l'apre la bocca. Quello è sicuro. Perché già si capisce niente quando parla, quando parla di politica. La Serracchiani. Perché parla con i denti chiusi così, no? Vabbè, allora, al di là dei denti chiusi, eccetera, della Serracchiani, eccetera, cosa vuoi dire? Nulla, mi fate riascoltare, Don Farinella si chiama quel prete del... Ma che è jukebox questo qua? Non che ha schifato i presepi. Mi fate riascoltare. Siamo al jukebox, perché vuoi riascoltare Farinella? Spiegami. Perché dopo Don Gallo è diventato il mio mito... È un grande quel prete. Te lo offriremo in pasto più avanti. Si potrebbe fare però Zanzara jukebox effettivamente. Un euro, sì, conto corrente, in cui la gente mette. Già ci ho pensato. Zanzara jukebox. Ovviamente poi accade, poi nel concreto accade questo. Che la gente dice io voglio ascoltare. Se vai a riascoltare Taormina, Borghese, un altro, cioè, mi fai ascoltare la canzone degli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Sì, questo no, uno dice questo Borghese. Radio Canicattì Sud succede però. Però va bene, ragno, per carità. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. R, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Allora ragazzi, calma a parlare di questa storia di Mario, perché la stiamo accertando, la stiamo verificando in tutti i suoi dettagli, vera, non vera, verosimile, possibile. Un coglione che chiama dicendo mia figlia che si prostituisce, un imitatore, tutto può essere qui dentro, tutto può essere, poi le cose vanno verificate. Beh, vanno, no Parenzo, vanno anche, ma ci mancherebbe, solo che ieri come si poteva verificare, ma e poi non... anche la voce sembrava così dettagliata, ma sì, ma... seria, ma sì, ma non c'è nessun problema, anche se qualcuno ha voluto chiamare fingendosi un bergamasco che c'ha la figlia che si prostituisce, ma che risultato avrebbe ottenuto questo signore? Qual è il risultato che ha ottenuto? Nulla, niente, zero. Allora, Don Zappella è il prete che si è autosospeso, condannato già nel 91 per atti di libidine nei confronti di minorenni a un anno e tot mesi, il quale poi è diventato prete. Diventato prete successivamente alla condanna, nonostante questa condanna, si potrebbe dire. Nonostante questa condanna, è rimasto a fare il parroco. È stato accusato di altre cose. Hanno chiesto il proscioglimento per queste cose qui. E questo prete si è autosospeso dopo le ennesime accuse che gli sono piovute addosso. Ma alcuni parrocchiani, insieme a un politico che era nella Lega, poi non è più nella Lega, eccetera, chiedono che resti nella parrocchia. Abbiamo recuperato qualche audio di questo Don Zappella che viene osannato, quasi, come dire, no? Viene protetto, sicuro, protetto da alcuni suoi fedeli. Sentitelo. Vado a testare. Il male non può prevalere sul bene, quindi io sono qua. E nient'altro. Il male torna anche indietro a chi lo fa. Il male torna anche indietro a chi lo fa. Ma ti vogliamo qua noi. Ti vogliamo qua. Non è facile. Ti complica la vita. Però la dimostrazione vostra. Bene, bravo. Da noi il fatto che si chiarisca interessa relativamente. A noi interessa essere qua per dirti che siamo contenti. Molto bene, sì. Come si fa la svelta ad emigrare una persona, no? Ecco. Se ogni mattino mi alzo, chiamo un giornalista e gli dico ho visto Tizio dare una svelta al figlio, il giorno dopo voi siete già alla gogna. Sì. Viva Francesca! Allora, questo qua era Don Zappella insieme ad alcuni fedeli. Io vi farei riascoltare però rapidamente l'intervista di ieri che ha colpito molte persone, del signore ex Lega che si chiama Villa, se non sbaglio, il consigliere comunale Villa. Di Borghetto Santo Spirito, provincia di Savona, che ieri ha detto, all'inizio era molto collaborativo, sì, ma io lo appoggio perché si è comportato bene in questi anni, poi a un certo punto è impazzito. Pronto? Villa? Sì. Buonasera, sono Cruciani, salve. Salve, mi dica. Senta, ho visto che lei ha scritto una lettera di sostegno a un parroco che si chiama Don Zappella, che è accusato di gravi reati, addirittura condannato per pedofilia. Sì, io non ho scritto a nome personale, ma ho scritto a nome dei fedeli. Vabbè, insomma, c'è anche la sua firma, lei è consigliere comunale, sì, ad Albenga. Sì, però nella lettera cito che scrivo a nome dei fedeli, poi la mia firma perché l'ho scritta io, chiaro. Vabbè, sì, ma è uguale, insomma, non è che cambia nulla. No, non è uguale, è un po' diverso, no, è un po'. In che senso, scusi, è diverso? Nel senso che mi sono fatto portavoce di quella che... Ma però lei condivide quello che ha scritto, immagino. Io posso dire che a me spiace che quest'uomo se ne vada. Ma come le spiace? Questo qua è stato accusato di ripetuti atti di pedofilia anche in tempi recenti. Mi spieghi questa cosa? Posso parlare? Posso certo, parlare? Certo. Io dico una cosa, poi non voglio entrare in altri termini. Io non sono uno che vuole giudicare, e se lui ha sbagliato è giusto che pagherà. Ci sono le persone preposte a giudicare. E vabbè. Io voglio solo parlare per quello che ho osservato in questi 6 anni. Questo uomo ha tirato su questa parrocchia e ha fatto un gran lavoro, e a me che vada via mi dispiace per questo. Però stop. Scusi, sì, d'accordo, per carità, uno può dispiacere che uno faccia un buon lavoro e poi vada via, ma questo qua è un pedofilo, è un prete pedofilo. Questo lo dice lei. Ma come lo dico io? Lo dicono le sentenze. La magistratura. Ma non lo ha già detto. Lo ha già detto la magistratura. Va bene, scusi, posso dire che per quello che ha fatto in questi 6 anni mi spiace che va via? Posso dirlo? Cioè, scusi, no, capito, lei affiderebbe i suoi figli a Don Zappella? Mi scusi, io le ho fatto una dichiarazione. No, ma lei lasci perdere la dichiarazione. Io le faccio invece una domanda, non è che io mi accontento delle dichiarazioni. Come ha avuto il mio numero lei, scusi? Ma lasci perdere, io faccio il giornalista, non è che faccio il... Come ha avuto non il faccio mio il parrucchiere, numero, non faccio il parrucchiere con tutto come rispetto. Come ha avuto? Chi le ha dato il mio numero? Io faccio il giornalista, lei è un esponente politico, se lo mette in testa. Chi le ha dato il mio numero? È uguale. È stato creato da 2 giorni il mio numero. È uguale, Don Zappella, lei mi affiderebbe i suoi figli. È un pedofilo, lei ha lei dice il nome e cognome di chi le ha dato il mio numero. No, ma non le dico nulla. Lei affiderebbe i suoi figli a Don Zappella. Io la ringrazio. Lei si deve solo vergognare perché appoggia un prete pedofilo, ha capito? Ok, mi scusi, aspetti un attimo, me lo può ripetere che sto registrando adesso? Lei, a mio parere, si deve vergognare perché ha scritto una lettera di solidarietà perché vuole che questo prete resti, ed è un prete pedofilo. Chiaro? Benissimo. È un prete pedofilo, accusato e condannato. Guardi, sono Giuseppe Cruciani, la Zanzara Radio 24, non si preoccupi, lei può registrare. Giuseppe Cruciani, la Zanzara Radio 24. Cruciani. Qual è il problema, scusi? Io la saluto. Che problema la c'è? Saluto. Che problema la c'è? Ringrazio. Che problema c'è? Non ho capito. Che problema c'è? Qual è il problema? Qual è il problema? Allora andiamo a Roma, Amalia, vai. Sì, buonasera, sono la nonnina da Roma. Nonnina, bene. È un onore parlare con lei. Dimmi. Senta, le volevo dire, a proposito dell'iniziativa di Milano di fare girare, di non far entrare le signore con il burka, ma non sarebbe opportuno che nessuno girasse per le strade con il burka? Perché io vorrei. Ma nessuno gira infatti col burka per strada. Non succede. No. In Italia è molto raro. In Italia no, è molto raro. Ho visto delle immagini di Milano di donne col burka. Magari col velo, magari col velo. No, proprio col burka, altro che. Ma il burka è molto raro. Il burka è molto raro. Comunque, io sono d'accordo su vietare il burka, poi se uno si vuole mettere il velo chi se ne frega, si mette il velo. No, il velo non me ne importa niente, perché se lo mettono pure in Sicilia o non so dove il velo. No, ma il velo anche le suore lo mettono sui capelli. No, ma non mi interessa il velo, mi interessa che il volto rimanga scoperto, non le sembra? Ma certo. Assolutamente, ma infatti non si può in teoria, poi in Italia le leggi guardi, sono fatte per essere ricordo così, che anni fa all'aeroporto del Cairo eravamo una comitiva, siamo stati 4-5 ore all'aeroporto per il controllo passaporti, sì, allora... e poi sono passate 2 signore con il volto coperto. Sì, ma era al Cairo però, signora. Sì, al Cairo appunto. Vabbè, ma erano riconoscibili secondo lei? Uno che siamo tutti d'accordo, però la cosa della Regione Lombardia che oggi ha vietato con un super decreto d'urgenza, non so con quale ordinanza, eccetera, è assolutamente ridicola perché... Ecco, bravo. Ma perché non ha senso logico vietare, già è vietato entrare negli uffici pubblici, negli ospedali con il volto interamente coperto, è già vietato, dunque è una cosa propagandistica che ci sta, è un po' per fare bagarre politica, per guadagnare dei voti, ma però noi abbiamo il dovere di dire che è una buffonata, cioè che è bravo. Va bene, ciao Giorgio Verona. Giorgio. Sì, pronto, eccomi qua. Dimmi. Ho chiamato perché prima ho sentito il signor Davide Parento. È qua, sì. Per quanto riguarda quel rumeno che è andato a rubare nel cassonetto. Quel cassonetto lì sono cassoni per recupero rottami ferrosi, ok? Se era rottame di rame, il signor Parento ha detto, beh, se l'ha buttato via vuol dire che non vale niente. Allora io faccio questo mestiere qua, vendo rame da più di 30 anni, per una grossa azienda di Padova. E lo butta nel cassonetto? No, abbiamo, ma non è un cassonetto normale, è un deposito fatto apposta. Abbiamo i cassoni per recupero del rotame. Certo, e dove va a finire? Ma le aziende certo, sono obbligate. Ma dove va a finire questa roba? Un attimo, mi faccia finire per cortesia. E il rotame di rame, se il rame costa 6 euro al chilo, il rame nuovo, pulito, il rotame costa 4,50 euro. Ok? Ma perché viene buttato? Ma non viene buttato, sono i residui delle lavorative. Esatto, ma il signor Parenzo ha detto, se lo hanno buttato nel cassonetto i rotami di rame vuol dire che non vale niente. Ma è strano che in una trasmissione del Sole 24 Ore... Ma questo che cazzo c'entra adesso, il Sole 24 no, Ore? No, ma dico che Parenzo non sappia che un rotame di una materia prima come il rame non abbia comunque valore. Lui dice che non vale no, niente. No, ma sicuramente ho capito. Intanto si stava discutendo di questo un cassonetto raccoglitore di rame. Lì per rubare. È ovvio che ha un valore per questi qui, è evidente, ma mi pare. Lei Parenzo ha detto per radio, l'ho ascoltata. Ho prima, detto che se uno l'ha buttato, evidentemente non l'ha che commercializzato, se uno l'ha buttato, no? Evidentemente ma non era buttato. No, lei ha detto che se uno viene l'ha buttato, scusi, nel però, anche siamo fosse d'accordo. Posso forse aver. Posso evidentemente aver sbagliato, ma le chiedo se viene. E le chiedo. Se viene raccolto questo maledetto rame, diciamo di scarto, no, è benedetto, diciamo, non rame, no, maledetto, questo benedetto, no, infatti, questo benedettissimo rame viene raccolto in questi cassonetti. Dopo, che fine fa questo rame, viene diciamo rivenduto, di scarto, viene raccolto camion, nei cassonetti? Viene il camion, lo carica, lo porta in fonderia, viene fuso e viene fatto il rame nuovo. Ha capito? Quindi anche se di scarto ha un valore. Non si butta mai via. Quindi anche se di scarto ha un valore. Ha un calotto dentro nel bagno, vanno tirate via le impurità. Va bene, allora mi sono sbagliato, il cassonetto evidentemente. E allora, se questo valore, se questo rame qua, ciò non toglie la questione di fondo. Al chilo, quei cassonetti lì, se uno lo va a rubare, che ruba 10 quintali, ha rubato 4.500 euro. Ma certo. Se poi si taglia la testa perché il portone, perché la bascula del cassonetto, fatalità, scende, è morto rubando. Cioè, un po' chi se ne frega, lei non questo si emoziona più di tanto. Chiaro, è come chi è venuto a rubare a casa mia, è andato su dal balcone, se si stacca la grondaia lui si ammazza, cosa devo pagare io? Perché ma nessuno chiede a lei norma, di pagare, ma capito? Infatti si stava solo discutendo sul fatto. Noi non se l'avvocato... Parenzo, saremo cinici, ma noi non ci emozioniamo per la morte bene, di questo signore. È una discussione, cioè, abbastanza... non ci viene, cioè, il cuore non ci gronda di sangue. Ma il non cuore siamo, di nessuno, non siamo penso... toccati dal fatto che questo signore rubando si è decapitato, si è tagliato la testa. Nessuno sta parlando di questo in questi termini. E allora fermiamoci un attimo. In questi termini pulp. Fermiamoci. Pulp. Mi fai ridere così. La zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Cari amici miei della zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Allora, a proposito delle banche, la Boschi ha detto: mio padre è per bene, dal governo nessun favoritismo per Banca Etruria, abbiamo commissariato la banca dove lui è stato vicepresidente per 8 mesi ed è colpa mia se è finito nelle cronache. Dai, David da Prato, David. Buonasera Cusani. Dimmi, dimmi. Allora, io tanto so che alimenterò polemiche perché tanto queste innumerevoli lamentele degli italiani, insomma, tutti i giorni ce n'è una. Allora, sono ritraso. Volevo raccontare quello che mi è successo quando ho telefonato in questura per diciamo così, denunciare il furto avvenuto a mio figlio grande, a stazione di Prato. Cioè gli hanno preso dei soldi sostanzialmente in tre. Sì. Mio figlio è grande, è grosso anche, però che cosa ha fatto lui? Con il buon senso ha preso e glieli ha dati, perché comunque sia, se no uno cioè, gliele ha date un no, glieli ha dati i soldi. Ah, gli ha dati i soldi, avevo capito, gliele ha date. Allora no, non gliele ha date, anche se avrebbe potuto, per via della stazza e tutto, perché vabbè, allora questi c'ha un coltello mi strano. Io chiamo in questura facendogli presente che questi tizi stanno girando da tutta la giornata. Il poliziotto mi risponde: guardi, caro cittadino, questo è il paese Italia. Se non le stanno bene le regole di questo paese, d'accordo, se ne può pure andare. A me. Questa è. Cioè, non ho capito. Lei che cosa chiedeva? Di intervenire con questi che erano in giro per Prato? Esattamente. Dicevo, guardate, c'è questa situazione di che cosa mi consiglia di fare? Niente, perché noi non possiamo fare niente. Se non le stanno bene le regole di questo paese, d'accordo, se ne può pure andare. Vabbè, adesso non credo che i poliziotti, francamente, se lei ha detto ai poliziotti, guardate che ci sono questi qua, io li posso riconoscere, mio figlio li può riconoscere, mi hanno rubato dei soldi, cioè, non credo che i poliziotti abbiano risposto no, non possiamo fare niente, francamente ho difficoltà a credere a questa roba. Io di solito non dico le cose a caso, cioè, la risposta è stata questa al telefono, poi gli ho detto e se io vado io gli spacco la testa, e lui mi dice guardi, da cittadino le posso dire che lei ha ragione, perché questa è una rapina in piena regola. Sì. Da poliziotto le devo dire di no, e questo lo capisco. Però che un poliziotto mi venga a dire, d'accordo, che comunque questo è un paese, d'accordo, se non le stanno bene le regole, ci scelti un altro paese, perché purtroppo così, insomma, mi sembra un pochettino troppo eccessivo. Va bene. Comunque, David, ciao. Allora, è con noi un uomo che ha subito degli abusi sessuali qualche anno fa ed è diventato il responsabile di una associazione che si occupa di abusi, appunto, che si chiama Rete L'Abuso Onlus, si chiama Francesco Zanardi, proprio in Liguria, e che conosce molto bene la vicenda di Don Zappella. Ciao Francesco! Ciao a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto fammi capire una cosa: com'è possibile, so che ti occupi di questa vicenda di Don Zappella da un sacco di tempo, com'è possibile che ci siano delle persone oggi che chiedono al dei parroco, fedeli più, che dei fedeli, più questo politico, al parroco di restare? Questo signore è stato condannato nel 91 per molestie sessuali nei confronti di alcuni minorenni a un anno e sei mesi, se non sbaglio. Credo che non fosse ancora prete al momento di quella condanna. È diventato incredibilmente parroco successivamente, cioè è entrato in chiesa più avanti, se non sbaglio, Zanardi? Esatto. È stato, diciamo, condannato mentre era nel seminario di Pinerolo, poi è diventato prete. Cioè lui era in seminario quando ha fatto questi abusi? Sì. Dopo è diventato prete e successivamente che cosa ha fatto? Ha fatto altre porcherie questo signore? Sì, successivamente sì, noi abbiamo sollevato il caso di Don Francesco Zappella grazie a una segnalazione che ci è arrivata dall'Uruguay. Abbiamo recuperato addirittura la vittima in Uruguay, che nel settembre scorso abbiamo portato qua in Italia davanti al magistrato della Procura della Repubblica di Savona per denunciare, e si è aperta questa inchiesta. Da questa inchiesta poi si è scoperto, si è venuto a sapere tramite segnalazioni che arrivavano da Bergamo, che questo prete aveva già avuto delle problematiche, la procura ha indagato e ha trovato appunto già una condanna. Sì, nel 91, ma dopo non ci sono state altre condanne comunque? Per il momento no, il fascicolo è ancora aperto, diciamo, è stato archiviato nei confronti del ragazzo che abbiamo portato qua. E perché è stato archiviato? È stato archiviato purtroppo per intervento dei termini di prescrizione, ma ci sono in realtà altre. Ma questo linee. Ragazzo che cosa diceva? Ma niente, questo ragazzo è un ragazzo che insieme alle altre vittime che hanno denunciato questo sacerdote e che non sono ancora prescritte, per il momento non sono archiviate, era stato affidato a un orfanotrofio uruguaiano, un orfanotrofio gestito dallo Stato uruguagio. No, ma che diceva? Che tipo di abusi erano? Che prove c'erano di questi abusi? Tu le hai viste concretamente, no? Perché le testimonianze di questo ragazzo le hai raccolte. Sì, le testimonianze le abbiamo raccolte, testimonianze purtroppo coerenti. In realtà il ragazzo ci ha confermato quello che ci confermavano le segnalazioni, perché ripeto, il ragazzo non ci siamo arrivati successivamente. Sì, ma scusi Zanardi, ma perché lo difendono sto prete? Io questo ancora non ho capito. Lei vive lì in quella zona lì. Ste persone, questi parrocchiani, perché difendono sto prete? Io credo di fondo c'è intanto una enorme ignoranza sul problema pedofilia, non si sa cos'è la pedofilia, si pensa troppo spesso a una cosa brutta, cioè il rapporto sessuale tra un adulto e un ragazzo, ma non si conosce. No, però scusi, questi qua magari non sanno alcune cose, però considerano questo prete un bravo prete e lo difendono contro le accuse dicendo noi non ce ne frega niente, non devi spiegare niente, cioè è un po' strano, no? Eh sì, è stranissimo, sono sincero, è aberrante, io sono una vittima e sinceramente vorrei che queste cose, quello che hanno detto in questi giorni e la lettera aperta che è stata consegnata a Domenica Borghetti, la consegnasse ai ragazzi che sono stati abusati da questo prete, avessero il coraggio di fare questa cosa, perché in realtà... Ma quanti ragazzi hai conosciuto che sono stati abusati o dicono di essere stati abusati da questo prete? Ma allora, uno lo abbiamo avuto qua in Italia, in realtà le testimonianze che ci arrivano sono moltissime, le testimonianze tra le altre cose che questo prete già qua nel Stavonese, sì, quando arrivò, fu spostato più volte, ultima tappa Borghetto, e ce ne sono, ecco purtroppo. Cioè ce ne sono quante di testimonianze di abusi? Ma di chi ha avuto il coraggio, diciamo, di scriverci, noi ne abbiamo avute altre tre qua in Italia, diciamo. Mentre abbiamo una bella lista per quanto riguarda l'Uruguay. Ah, addirittura. Vabbè, l'Uruguay però. Vabbè, l'Uruguay, sì, d'accordo, ma cioè testimonianze italiane, savonesi, ce ne sono? Vittime no, testimonianze sì, testimonianze che il sacerdote fu spostato più volte già nella diocesi di Albenga per problematiche relative alla sessualità, ecco. Fermo lì. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. La Zanzara. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Allora, sembra passato un secolo, ma l'anno scorso, Parenzo, era il 24 ottobre del 2014, Francesca Ciauchi, sì. L'ex PR, poi diventata membro della commissione per la revisione delle finanze del Vaticano, adesso sotto inchiesta per i documenti che sono usciti dal Vaticano, il famoso caso Vatilix 2, andava alla Leopolda. Senti cosa scriveva un anno fa, sembra passato un secolo, eh? Io domani vado alla Leopolda a cercare di costruire qualcosa, non al corteo ad urlare rabbia senza proporre soluzioni. Vabbè, detta così sembra una cosa normale. No, ma sì, è normale, però cioè, è curioso, no? Un anno fa, esattamente un anno fa. La lettera di Pierpaolo Villa, ex Lega Nord, consigliere comunale a Borghetto Santo Spirito, recita così: vi chiediamo di lasciare Don Zappella al suo posto per il bene della parrocchia e di tutti i fedeli. Mi sono permesso di scrivervi perché ho un peso nel cuore che devo liberare. Lo faccio a nome di decine e decine di parrocchiani che hanno conosciuto in questi 6 anni una persona che, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha saputo avere la forza di dare nuova vita alla comunità, coinvolgendo anziani, adulti, ragazzi, bambini, famiglie. Anche voi, durante le visite in occasione di diverse ricorrenze, sta parlando al vescovo, avete sottolineato quello che noi comunque già conoscevamo. Avete scelto Don Francesco come vostro collaboratore e avete chiesto ai suoi parrocchiani di tenerlo stretto. E tenerlo stretto non è Radio Maria, attenzione. E tenerlo stretto è proprio quello che vogliamo fare. Noi non abbiamo diritto di giudicare, però possiamo parlare. Come non avete diritto di giudicare? Dovete sapere. Però possiamo parlare fermamente per ciò che abbiamo visto e apprezzato grazie a lui. E infatti parlano di un uomo forte e umile che ha dedicato pienamente la sua acciaccata vita al servizio di chi ha bisogno, eccetera, eccetera. Vi chiediamo di lasciarlo al suo posto per il bene della parrocchia e di tutti i fedeli. Vi lo chiediamo con il massimo rispetto, ma con la convinzione di chi sente di perdere qualcosa di essenziale. Nel 1991 Francesco Zappella è stato condannato a 1 anno e 2 mesi per atti di libidine violenta su 2 minori di 14 anni, quando si trovava nel nord Italia a Pinerolo. condanna lieve. Era stato poi abbastanza lieve, sì, poi bisogna vedere che atti di libidine violenta erano, ma comunque sempre violenta, sì. Era stato poi la giustizia italiana. Era stato poi ordinato sacerdote nel 1997. Evidentemente quando è stato ordinato sacerdote, all'epoca frequentava il seminario, se ne fotterono di questa cosa, tanto uno in più, uno in meno. Anche Zanardi è stato vittima di un caso di pedofilia diversi anni fa, se non sbaglio. Zanardi, quanti anni fa esattamente? Ma io avevo 11 anni, adesso ne ho 45. Per cui però una trentina di anni fa. Lei che tipo di abusi ha subito, se io la posso chiedere? Ho subito abusi sessuali. Pesanti, diciamo, violenti, come nel caso pesanti, di... Pesanti, violenti, e comunque al di là di questo la cosa bella... No, è interessante questo, aspetti un attimo, poi torniamo sulla lei. Cioè lei... no, perché è interessante... A parte che non capisco perché Adalbenga è pieno di pedofili, scusi se glielo chiedo, c'è una concentrazione di pedofilia che è spaventosa. Ma cioè, sempre in curia poi anche lei, sempre da prete? Da chi? Sì, da un prete, certo, è stato sì, da un prete che, tra le altre cose, la cosa aberrante è che a questo prete, quando poi è stato un momento, diciamo, che la cosa è diventata di dominio pubblico, perlomeno chiacchierata, il vescovo ha fatto aprire addirittura una comunità per minorenni in difficoltà, risolvendo, cioè, nel suo caso, dice, nel prete che nel lo mio caso, nel suo caso. Sì. Com'è che si lei chiamava, ha denunciato subito, come si chiamava subito questo prete, ricordiamolo? Questo prete si chiamava Donnello Giraudo e il vescovo è l'attuale vescovo di Cremona, Monsignor Dante Lanfranconi, che non fece questa cosa solo con Donnello Giraudo. Cioè l'attuale vescovo di Cremona, vescovo di Cremona, Dante Lanfranconi, copriva i preti pedofili in sostanza. Coprì due casi, in entrambi i casi, uno è appunto Donnello Giraudo, l'altro Don Giorgio Barbacini, rendete conto. Fece aprire ben due comunità per minori in difficoltà ad entrambi, sapendo che erano pedofili. Infatti è stato rinviato a giudizio anche Dante Lanfranconi. Perché c'è una... perché c'è... Però attualmente è comunque il vescovo di Cremona. Sì, perché poi si è salvato grazie alla prescrizione, anche lui. Sì, ma non c'è la salvezza per queste cose, eh? Cioè non c'è la salvezza. Se uno non denuncia, se uno non sposta i preti, addirittura mettendoli accanto a minori, i preti pedofili con casi acclarati, chiari, non c'è poi la salvezza. Ti puoi salvare dalla giustizia, ma non è che ti puoi salvare da altre cose. Ma perché c'è una foto, delle immagini, ho visto, di Bergoglio insieme a questo signore, a Don Zappella? Perché Don Zappella è stato ricevuto recentemente da Bergoglio. Ma Bergoglio lo sa che questo qua è stato condannato nel 91 per abusi gravi nei confronti di minori? Non lo informano? Posso sapere, presumo di sì, non posso dire che lo sapesse, so che adesso lo sa, ecco. E comunque la cosa grave attualmente... Ma ha cambiato qualcosa Bergoglio o no? Lei che si occupa di queste cose? Assolutamente no. Sto dicendo appunto che la cosa grave, secondo me molto grave, che la diocesi di Albenga... è per quanto ne sappiamo l'unica diocesi al mondo commissariata per casi di pedofilia. Cioè Bergoglio ha mandato qui un suo inviato a controllare la situazione. Bene, il vescovo Borghetti non ha ancora sospeso, malgrado tutto, Don Zappella, il quale ha cessato, diciamo, la sua vita pastorale di sua iniziativa, ma per sua iniziativa, ecco. E questo è aberrante. Scusami, ma lei per quanto tempo ha ricevuto questi, è stato attenzionato da questi abusi? È stato violentato più o meno dagli 11 ai 15-16 anni. E oggi come ma sta? Non ha denunciato subito? Sì, non ho capito. Dopo un po' ha denunciato, sbaglio? No, perché non c'è coscienza, purtroppo. Non è che questa è una cosa, purtroppo, cioè, che per 5 anni, cioè lei per 5 anni, mi faccia capire, nell'età adolescenziale ha subito questi abusi e non ha detto nulla neanche ai suoi genitori? No, perché tra virgolette, il sacerdote Giraudo, quello che ha abusato di me, ha fatto una strage nel paesino dove abitavo. Io abitavo a Scotorno, un paesino di 5.000 abitanti, e contiamo una quarantina di vittime. Quindi questi ragazzini, me compreso, diciamo che fare... scusate la volgarità, sesso col prete era quasi normale. Beh, insomma, tra l'altro normale in un'età dove lo sviluppo ormonale, quindi anche cose, sviluppi ormonali appunto... Ma quanti preti ci sono, secondo te, Francesco, oggi in attività in zona d'Albenga, pedofili? Cioè, chiaramente pedofili, ancora in attività, cioè ancora parroci o comunque che stanno attivi, lì? Ecco, attivi. Ma allora, noi li abbiamo contati, ce ne sono diversi. Ma no, dimmi un numero, quanti ce ne sono? Pedofili, accertati pedofili? Pedofili accertati e condannati, trasferiti dopo la condanna Albenga, almeno 5. Cioè 5, attivi. Ci sono 5 oggi ad Albenga? Sì, esatto. 5 ad Albenga, ragazzi, ma è una cosa incredibile. Cosa mi sembra surreale. Purtroppo la panoramica non è solo Albenga, perché purtroppo... No, vabbè, però ad Albenga evidentemente si concentrano, hanno trasferiti tutti là. Che ti devo dire? Cioè, come sì, mai Albenga ha veramente una densità notevole, ecco. Va bene, ciao caro, ciao Francesco. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. Salute. una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. La spazzatura radiofonica italiana, siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Peccato che il coperchio del cassonetto non ha piato pure quell'altro, i ladri tutti devo ammazzare. Quello che è più incredibile non è il ladro rumeno che è morto in un cassonetto delle isole ecologiche e adesso i parenti vogliono fare causa. Quello che sarà incredibile è che un giudice gli darà anche ragione. Un giudice gli darà anche ragione, vedrete. Oh, se vai a rubare e ci rimani secco, sono cazzi tua! Cazzi tua, stop! Ma vada a fare in culo l'avvocato, il suo assistito morto decapitato e tutta la famiglia zingara di merda che si può mettere nel cassonetto, cazzo! Parenzo, si vede che non capisci proprio un cazzo. Il cassonetto di residui metallici, dal rame a tutti gli altri, è obbligatorio per legge. E in ogni caso, anche se io butto via un torsolo di mela, nessuno autorizza qualcuno ad entrare nel mio cestino, cassonetto che sia, a fregarsi il torso di mela, a morirci dentro perché è difettoso e a chiedermi danni. Sei ridicolo, ridicolo! Io semplicemente direi meno male, uno in meno. Allora Fabio da Vicenza, vai Fabio. Ciao, Fabio, dimmi. Volevo intervenire perché non mi ha convinto molto la tua posizione rispetto alla figlia di Mario da Bergamo, la prostituta, ammesso che sia vero che fosse la storia fosse vera, che non fosse invece no, ammettiamo che sia vera, ammettiamo che sia vera. Qual è la posizione moralistica? Scusa, non ho capito. Voglio dire, io ho sempre sentito essere molto liberale rispetto alle prostitute. Sì, ma ognuno infatti fa quello che vuole. Mica ho detto che deve intervenire la polizia, i carabinieri, quella è una persona adulta, sono tutti adulti. Ognuno fa quello che vuole. Sì, però capisco quello di Parenzo, ma l'atteggiamento tuo era un po' quello di sorridere sul fatto che questo avesse... Beh, insomma, la storia era abbastanza... La storia era abbastanza curiosa se vogliamo, anche abbastanza inverosimile, cioè, nel senso, uno che tollera la prostituzione in casa della figlia, insomma, no? Sì, ma mi verrebbe da dirti, cioè, scusa un po' la provocazione, mi sembrava di capire che avesse una figlia, no? Se tua figlia diventasse prostituta dovresti trattarla come dire, ma sì, è un lavoro come un altro. Ma infatti ho sempre detto questa cosa, me l'ha contestata anche Parenzo. Io non me lo auguro per mille motivi, ma... Beh, è una cosa terribile. Ma non me lo auguro per mille motivi, ma se facesse la escort di lusso per guadagnare 10.000 euro al mese... Per me sarebbe terribile. Attenzione, no, io devo dire la verità. Allora, se a un certo punto mia figlia ha 20 anni, mi dice, guarda papà, mi piace questa roba qui, io direi dove sono sbagliato. Una escort di lusso, guadagno 20.000 euro al mese, gli dico, figlia mia, che devo fare? Certo, se mi dice starei che sta a battere per strada per drogarsi di eroina, quello ma è un altro comunque, discorso. Comunque, ci starei malissimo, cioè, comunque. Ho capito che ho queste qualità fisiche, posso farmi pagare 1.000 euro a botta, ragazzi, vuol dire che ho sbagliato. Tanto impedire parte. Non glielo puoi impedire, giusto? Ma sì, uno può anche sbagliare, per carità, sai, ci sono... Starei malissimo. Ma io non so valutare. Che passasse questo vorrei fare, che sicuramente scandalizzerà qualcosa. No, vorrei che passasse ai miei figli, a mia figlia in particolare, questo aspetto che è riprovevole dal punto di vista morale. Cioè penso fare che la prostituta è riprovevole dal punto di vista morale. Io vorrei che a mia figlia cominciate a chiamarci prostitute di tutta Italia, certo, che se dall'ascolto sono anche tante, a mia fate figlia un mestiere riprovevole, perché la morale tu la insegnerai ai tuoi figli. Sì, io però non dico che le prostitute sono riprovevoli, capito? Non le prostitute. Beh, sì. Se lei dovesse fare quel lavoro, lo troverei riprovevole dal punto di vista morale per lei e per la società e prima di tutto per se stessa. Ma usi delle parole che sono... Uso le parole quelle che sento. Pensi questa cosa, io la contesto. È riprovevole, penso che sia... Io ho delle cose, dei valori che vorrei trasmettere. No, le prostitute però sono delle grandi benefici. No, però il discorso... Cioè, tu trasmetterai dei valori, no? Sì, ma certo, non c'è dubbio, che c'entra Non è sbagliato trasmettere dei valori, credo. Poi si può discutere sui valori, ma non è sbagliato trasmettere dei valori ai figli. No, però io, scusa, chiamatemi, vuoi parlare con una prostituta? Prendete un attimo. Ma no, dalla perché regia. Il problema non prendetemi è la prostituta. Numeri, prendetemi dei numeri di prostitute. Ma io non voglio convertire nessuno, me ne frega no, niente. Devi dire, tu fai un mestiere riprovevole. Ma fai no, un mestiere... io lo direi per, mie, per, io lo direi per un ma mio no, congiunto. Ma lo dici, quello ma lo direi. C'entra, ma lo dici per tutti? No, lo reputo riprovevole da un punto di vista morale mio, ma non impongo la mia morale agli altri, a chi sceglie di farlo. Se mi si chiede a me, a mia figlia, io direi questo, glielo direi a lei, ma un'altra, non lo direi mai. Dillo un'altra, fai un mestiere, perché fai la prostituta? No, è un mestiere riprovevole. Non glielo direi mai a lei, perché se lei sceglie, saranno problematici. Ci sono anche che mi occupo i problemi del mondo, io delle cose che mi riguardano direttamente, no? Quindi, beh, no, la prostituzione è una cosa che non riguarda solo te. Ma io sono per la per infatti sono per la legalizzazione della prostituzione, peraltro, quindi non è una contraddizione. Ma se tu mi chiedi cosa penso di questa roba, io lo trovo riprovevole per verità. Lei. Se mia figlia, non lo so, se mia figlia mi dice una cosa del genere, sarei colpito, ovviamente. Ma se mi dice, guarda, guadagno, che ne so, tanti soldi e voglio fare per un periodo, mi servono. Io penso, direi tesoro, te li do non io. Non ho nessun problema. Non te li do io quei soldi. Magari non ce li ho. Evita di farlo. Vabbè, allora chi è? Vuol che dire è? Che le ho insegnato dei valori sbagliati? Fabio, però se lei era dice Fabio, che vuole Fabio. Sì, no, volevo dire questo, cioè, mi colpiva il fatto che comunque tu trattassi la cosa con un po' di sufficienza, no? Tra l'altro volevo aggiungere anche questo, ho vissuto un po' di anni a Bergamo e non vorrei che quel racconto lì fosse una specie di barzelletta, nel senso che il racconto, no, del tipo che parla, ha la figlia in casa che fa la prostituta ma che si lamenta dei clienti che vanno sul suo divano, mi suonava quasi come una storiella, ma giustamente è difficile stabilire se fosse vero o meno, insomma. Siete aperti giustamente agli scatti telefonici, per cui ci poteva anche stare. Anche li riceviamo, anche di ma può essere, sì, ma può parli essere. E riceverli, sì. Può essere. Gabriele, provincia di Forlì. Sì, ma non è un grande scherzo, cioè, non è uno scherzo geniale, cioè, è uno scherzo di uno che ha chiamato. Se fosse così, non lo so. Gabriele, vai. Cruciani, buonasera. Dimmi. Salve, ascolta, io avrei una proposta piuttosto per eliminare un po' il problema della sicurezza, nel senso con gli arabi, i musulmani, tutte queste cose, sì, qua. Sì. Siccome avevo sentito anche Sgarbi, che ogni tanto ci becca, che diceva che i pericolosi sono i religiosi credenti, quindi lui si fida solo di religiosi non credenti, tipo magari come noi che siamo non andiamo in chiesa, insomma. Vabbè, vai al sodo, dai, già mi hai mai confuso con questa storia, dai. Avevo pensato, bisognerebbe fargli la prova del maiale, nel senso, non so adesso se si offende Parenzo, no, aspettarli magari o alla frontiera o quando arrivano e dargli una bella piada con la salsiccia, se la mangiano bene, se no vanno a casa loro. Cioè, in che senso, scusa, questa qua una è una cosa alla Trump, vabbè. Diciamo, cioè, no, non lo so, anche Trump non è, persino Trump se può darsi non arriva no, a questi a questi è livelli. Provocatorio, sicuramente, però il problema è quello, nel senso che il terrorismo comunque, se noi andiamo a bombardare in Siria non serve a niente, perché comunque allora? Il resto, no, nel senso, appunto, ci sono i terroristi, quelli lì che hanno colpito anche 11 settembre, così sono gente di seconda generazione, così, quindi, cioè, se te vai a colpire in Siria. Però lei non va niente, così insomma. Lontano, cioè, lei lo dice, vabbè, come provocazione. Ragazzi, ma c'è alcuni traffico, leghisti. Dai, adesso siamo passati alla Siria, ai bombardamenti, dalla salsiccia alla salsiccia all'ingresso, alla frontiera, ai bombardamenti in Siria. Traffico. Traffico veicolare. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilerata. Allora, Gianni, provincia di Milano, vai Gianni. Sì, ciao Beppe. Dimmi. Ascolta, no, era solo una richiesta così molto, molto semplice. Sono assolutamente propenso anch'io per la Zanzara Jukebox. Ma cos'è? Che cazzo vuol dire la Zanzara Jukebox? Anch'io voglio sentire Don Farinella. Mo ve lo faccio ascoltare un attimo. Dai. Fermi, dai, su. Cioè, ma che volete ascoltare? La cosa sulla Gelmini che abbiamo fatto ascoltare ieri, ragazzi. Ah, è, sì, è pesante. È un mito anche per me, dai. Vabbè, Gianni, ciao. Fabio Bologna, dai, Fabio. Pronto. Sì. Ciao Giuseppe, ciao David. Ciao, caro. Niente, guarda, io volevo intervenire sul salvabanche. Vai. Premesso, massimo rispetto per le persone che hanno perso soldi, denaro, cioè nel senso non è questo il punto, nel senso che dispiace umanamente, però se dal punto di vista umano si passa a una questione di tipo razionale, queste persone hanno fatto degli investimenti, hanno fatto cose su cui non avevano le competenze, cioè il signore... Sì, è quello che penso anch'io, però è ma evidente i correntisti che... cosa c'entrano che non sapevano? Perfetto. Cosa non sapevano? Allora, i correntisti, questi che hanno fatto investimenti allora, sulle obbligazioni. Parliamo delle obbligazioni subordinate. Esatto, dai. La domanda che viene in testa è: subordinate a cosa? Tu sai che cosa vuol dire in italiano? No, vabbè, c'era un rischio di fondo. Sì, bisogna vedere rischio, come sono stati informati questi qua. Appunto. Perché sono andati allo sportello da un signore di cui si fidano, e questo signore aveva istruzioni, perché non è manco colpa sua, dire vendete il più possibile queste robe qui e non date troppe informazioni sui rischi, anzi... Perché non è colpa sua, da dimostrare. Sì, scusa. Dimostrare, fate passare l'idea che sono investimenti sicuri, questi qua li hanno inculati, diciamo la verità. Cioè, li hanno praticamente inculati. O no, Fabio? Allora, quando io perdo le macchinette o perdo... Sì, ma non è la stessa cosa, se allora, tu sai dire, alle macchinette... Dire che mi era passato un concetto di che potevo vincere, che non era così... Cioè, se approcciamo tutte le cose col fatto che a posteriori siamo vittime perché siamo stati danneggiati, allora tutto anche questo è un... Ma no, scusi, oggettivamente questi correntisti sono stati danneggiati, su questo non c'è che si può discutere. Se gli hanno detto, se qualcuno gli ha detto, se qualcuno hanno firmato qualcosa che non hanno controllato bene. È vero anche che le informazioni poi sono arrivate successivamente in alcuni casi. Dunque sono cambiate le carte in tavola, non è semplice seguire tutto. Loro si fidavano evidentemente di alcune persone. Questo è il punto di partenza. Che erano dall'altra parte dello sportello. Andavano come lì, quando vai dal medico, e dai, questi non qua c'è gli molto hanno consigliato capire. Delle cose lì. Bisognerebbe andare a prendere questi qua uno per uno, questi qua che erano dentro le singole banche, e metterli con le spalle al muro. Amico mio, che cazzo hai detto? Che cosa hai detto a questi singoli? Ma infatti signori? Alcuni di questi si difendono dicendo no, ma anche noi abbiamo comprato quelle stesse azioni e abbiamo perso. Alcuni invece più onesti, quindi, leggevo oggi su qualche giornale, dicono invece effettivamente avevamo istruzioni per dire che erano investimenti tranquilli, invece tranquilli non erano. Allora ragazzi, io voglio chiamare un signore che si chiama Antonino De Toma, il quale è convinto, caro Parenzo, è un signore napoletano molto anziano, una specie di, non dico un farmacista, uno che si occupa di ricerca, un ricercatore da solo, diciamo, un ricercatore solitario, è convinto che l'aglio funzioni come il Viagra. Cioè, è convintissimo. Viagra naturale, l'aglio come il Viagra. Sì, pronto di Toma, chi è che parla? Sono Cruciani, come stai? Cruciani, sto bene, non c'è male. Senti, ma spiegami questa cosa. Allora, l'aglio come il Viagra, in che senso? Spiegami. L'aglio è superiore al Viagra, l'aglio è un metodo naturale, scoperto da me in quasi nell'86-87. Questa è una grande scoperta, un'incredibile scoperta. L'impotenza è una cosa meravigliosa, questa è stata l'ultima mia scoperta, la penultima scoperta era per via anale. Per via anale, cioè per secondo te anale. Bisogna mettere per via anale l'aglio, come per si fa? Per via anale feci una scoperta su un asinello, che praticamente gli dette una cura vitalizzante e vitalizzante. Scusa, e dopo questa cura a base di aglio l'asinello che ha fatto? È diventato l'asinello praticamente lui, io gli detto di 3 spicchi d'aglio da pigliare per una settimana, il vecchietto gliene dette molto di più. E che è successo all'asinello? È diventato è successo che ne si alzava il pisello? L'affare, il vecchietto non poteva andare a lavorare con il carrettino e il cavallo. L'ultima mia scoperta è stata ancora più facile, adesso gliela dico. Sì? Cioè passare per una settimana prendendo l'aglio dal pollice all'indice, profilarlo sulla colonna vertebrale. Sì, ma anche degli esseri umani? Per una settimana. Sì. Dopo settimana si ha l'effetto. Lei casomai dopo il piacere dell'effetto di una settimana, sì, decidi di farlo il giorno dopo, la sera prima bisogna strofinarlo sulla colonna vertebrale. Però scusi, una settimana e poi il giorno, cioè, se io dopo una settimana decido di trombare, diciamolo esatto, chiaramente, si tromba, è una cosa meravigliosa, non c'entra niente Viagra, è una cosa schifosissima, è una cosa micidiale, è una cosa che non ne parliamo proprio più. Però scusi, uno deve aspettare una settimana però prima, esatto, perché entra nella cute e l'aglio deve fare i suoi effetti, e sento che l'aglio ha 116 sostanze solforose millesimali, sì, certo. Quindi praticamente il grande dono di Dio, strofinando, per sé si tromba dopo 7 giorni. Dopo 7 giorni. L'aria, odore d'aria. Poi casomai lei desidera da trombare, non so, il giorno dopo lo passa la sera prima. Sì, no, ma ho capito perfettamente. Ma forse l'odore dell'aglio, no? Che forse è un po'... L'aliace che è potente, è l'aliace con le altre sostanze solforose che è potente. Benissimo, allora, Berlusconi, come lei sa, odia l'aglio, per cui per lui non va bene questa cosa, signor Berlusconi. Berlusconi potrebbe provare, potesse che va bene. Per carità, può anche consigliare l'aglio. Sono regali incredibili di persone che mi hanno fatto dei regali da 4 mesi, guarda che è una cosa incredibile. Cioè, in che senso, mi spieghi? Mi hanno fatto dire che non prendo soldi. No, certo. Regali che... Praticamente vanno benissimo. E ti hanno regalato che cosa? Mi hanno regalato orologi, mi hanno regalato vestiti, mi hanno regalato... Ecco, ma quali sono i tuoi clienti, chiamiamoli così, anche se non ti fai pagare, chi sono? Gliel'ho dato a Maiorca, gliel'ho dato a Mennea. E funzionava? Mennea non ne parliamo, Mennea se ne prendeva 2 o 3 al giorno e uno se lo succhiava prima di partire. Cioè il vero doping di Mennea era l'aglio? È una cosa meravigliosa, l'altro conobbi Mennea, ma... Scusa un attimo, Antò, ma su di te l'hai provato l'aglio? Io sinceramente l'ho provato pure, non lo nascondo. Cioè anche adesso l'hai provato? Io ne prendo 3 al giorno per via orale. No, ma ho capito, ma tu a 75 anni quanti ne hai? 76, sono 79. A 76 anni ancora trombi? Ma non le nascondo, ogni settimana mi diverto moltissimo. Grazie all'aglio. Grazie all'aglio, sì. Vabbè, da Toma, grazie Antò, grazie di questi consigli, mi raccomando. Grazie molto. A disposizione, arrivederla. Arrivederci. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Cruciani, non devi dire stronzate però la radio. Allora, io succhio cazzi da quando ho 14 anni, quindi ne capisco un po' più di te. Ora ne ho 32 e ti posso garantire che se tu vai a trans non ti piace la figa, neanche di traverso. I deficienti che vanno con le trans è perché non hanno le palle di dichiararsi ricchioni, allora vanno con un trans perché nel loro cervello loro stanno da letto con una figa. Ciao Giuseppe, ciao David, sono Mauro da Bari. Ho sentito la telefonata del quella specie di persona, Villa, come si chiama lui. Fatemelo incontrare questo pezzo di merda. Appoggiare un prete pedofilo, che schifo, che paese di merda. Questo è il signore qua di Bergamo, io sono di Bergamo, vorrei che desse l'indirizzo. Ma chi ha fatto il vestito alla Santa Che? Bocelli. Allora ragazzi, Parenzo, non so se hai notato oggi, Repubblica, pagina 23, c'è una storia incredibile raccontata da Paolo Berizzi. Sì, Berizzi. No, riguarda un gruppo di rapinatori molto agguerrito, molto violento anche. La tecnica è sempre la stessa di questi qua, cioè assalto armato, proprietari di case immobilizzati o pestati, furto e rientro in Romania. Fanno così, sono rapinatori romeni, molto violenti, spesso ci sono anche delle conseguenze gravi su questi qua. La cosa sempre pazzesca. A Bergamo, sì, lo stesso luogo nel quale invece accadono anche altre cose. Altre cose, sì, Mario, eccetera, eccetera, forse. Allora, questa cosiddetta gang delle rapine è stata inchiodata a un certo punto dai filmati. Però per motivi abbastanza astrusi, ma per il fatto che il magistrato vuole sostanzialmente arrestarli tutti insieme, cioè ne hanno identificati tre, siccome sono cinque li vogliono arrestare tutti insieme, per svariati mesi questi qua sono stati liberi di continuare a colpire lo stesso. Cioè hanno fatto un anno di raid, assalti alle aziende, sono stati identificati, tre mesi fa c'è stata la richiesta di arresto. Il GIP non firma la richiesta di arresto, non è arrivata, cioè per una firma, questi qua continuano ancora a rubare. Cioè questi qua hanno avuto il tempo di tornare in Romania nel frattempo, da quando sono stati ordinati gli arresti, identificati dalle telecamere. Sì, no, è incredibile. Tornati in Romania e poi in Italia per nuove imprese criminali, ma vi rendete conto o no? Di come può funzionare qualche volta la giustizia italiana. Massimo da Teramo, vai Massimo. Non c'è Sergio da Modena. Ciao Cruciani. Dimmi. Complimenti per la camicia, non stare troppo gobbo però. Camicia bianca, normale. Sì, la vedo, la vedo. Vedo solo camicia bianca. Vedete quell'altra faccia là. Ascoltami Cruciani, ti ho chiamato per questo. Io avendo un negozio al pubblico, un centro servizi, sì, devo dire la verità, tutti i giorni vengono a mandare i soldi all'estero, gli extracomunitari, sì, per le razze, sì, tra sì, l'altro. Sì. Però mi è capitato che venga anche gente, e è venuta anche gente direttamente col burka e ci siamo rimasti imbarazzati, no? Perché insomma, a parte l'impressione. Sì, ma quante persone sono arrivate a volto completamente coperto? Dai, sono arrivate col velo così, adesso non bisogna nemmeno. Io sono contro il velo, il burka, qualsiasi cosa. Per me sono follie assolute. Però se uno se lo vuole mettere il velo, chi se ne frega. Poi bisogna vedere che succede in quelle case dove le donne spesso vengono maltrattate, considerate eccetera. Ma quello è un altro discorso. Però ti sto dicendo io. Vivendo con loro non fisica, cioè però avendo un rapporto lavorativo, perché vengono a mandare i soldi giornalmente, cioè io vedo, hanno un concetto della famiglia e della donna totalmente diverso a quello europeo. Per quello io, per un fatto proprio di cronaca vissuta, posso dire, cioè, che non ho capito, hai paura tu, non ho capito. No, paura no, però ho visto che mia moglie delle volte hanno degli atteggiamenti verso la donna un po' diversi, come ma quello lo sappiamo, lo sappiamo, si discute da tempo, dipende dal grado di evoluzione della civiltà all'interno della singola famiglia, caro. Esatto. Sì, ma però secondo me loro hanno una civiltà indietro 300 anni. I cosiddetti islamici moderati, scusate, adesso mi fate cazzo, i cosiddetti islamici moderati, considerati moderati, come per esempio un gruppo che pubblica una specie di rivista online che si chiama Civiltà Islamica, considerano la musica una specie di Satana. Ma chi è questo? Cioè il bici, quell'amico tuo, come si chiama? No, Zucchi? Abdallah. Ma quello è mai stato amico mio, ma quello è un personaggio incredibile. E dai. C'è anche il vice segretario della moschea di Segrate, vicepresidente della moschea di Segrate, che si chiama Pasquini di cognome Sheikh Pasquini. Tu ti rendi conto, uno si chiama Pasquini peraltro, e ha anche il nome Sheikh. Un altro peraltro, convertito. Tu lo conosci Sheikh Pasquini? Lo conosco perfettamente. Sì, ah, pure lui conosci Sheikh. Veniva quando era in Lombardia, veniva ospite. Ma ti pare normale che uno si chiama Pasquini e poi si chiama anche Sheikh? Ti chiami Cruciani, cambi il nome, dice Cruciani, tu puoi farlo se vuoi, poi ma scusami, un trans si può cambiare, no, chiede giustamente, sì, però, che gli venga riconosciuto, prendo il trans così capisci meglio l'esempio, perché gli venga riconosciuto il passaggio da Marco a Marca, a Maria, e dici e adesso non permette che uno si chiama Sheikh, Calif, ma uno posso si può considerarlo una cosa fuori dal mondo o no? Però poi consideri fuori dal mondo il fatto che una signora, che un signore che uno si chiama diventi... Mario, poi si chiama Maria? No, quello no, quello è un po' diverso. E perché il trans può cambiarsi il nome e Sheikh non può chiamarsi Bubu? Perché secondo me è un po' diverso, perché quello sente dalla nascita una non conosce la propria identità sessuale. Cristiano all'AM. Ragazzi, non è normale, dai. Se ma vuoi, cosa se non tu è pensi, normale? Se ti piace un mondo signore così, che si chiama Joe Formaggio. Ma se ti piace un mondo così, ma cioè, non è che mi piace. Bene, pazienza, comunque, ti piace segnalo un mondo una nuova così. Iniziativa del tuo amico di Albettone, il cosiddetto sindaco Joe Formaggio. Che ha fatto? No, sì. Aspetta, ti stavo dicendo che questo. Cosa ha fatto Joe? Aspetta, questi l'ultima? Signori di civiltà islamica, per questi ma non è una rivista moderata? Sì, non lo so, ma comunque sono uno è il vicepresidente della Moschea di Sagrada. Questo qua sostengono, questi qua sostengono innanzitutto che i musicisti sono dei satanassi antropomorfici. E che poi la musica è sacra. Io mi ricordo quando Zucchi, non so se da noi o da qualche altra parte, pronunciò esattamente queste parole, il signor Zucchi. Io ho parlato con marocchini, tunisini che la musica la vogliono. Peggio per loro, perché chi ascolta la musica il giorno del giudizio Dio gli verserà piombo fuso nelle orecchie. Se a loro va bene così... Il piombo fuso nelle orecchie. Ma nell'orecchio di Zucchi. Ma io non riverserò nelle orecchie di Zucchi, no? Dai, ma chi se ne frega? Cioè... Dai, dai. Comunque, sindaco che di Albettone. Albettone. Che ha fatto? Signor Gio Formaggio. Che ha fatto? Dopo il divieto ai nomadi, il primo cittadino ha affisso alla scritta di benvenuto nel suo comune. Continua a mettere dei cartelli. Già questo che sì, cazzo sì, di comune allora... è? Ogni giorno. Qui vi spariamo. Sì, ma questo l'ha fatto già 20 giorni fa. È stato no, denunciato ma tu sai per questo. Tutta la cosa che ha scritto poi. Sì, è stato denunciato si per istigazione a tutti. Ma che c'hai l'Alzheimer, che c'hai? Bastardi, delinquenti, cerca guai, che ma guarda, ti roba, ti assicuro che è una roba vecchia. Indesiderate. Informati sì, meglio. Fuori di nuovo. È una roba vecchia. Me l'hanno risegnalato di nuovo. Ma te l'hanno segnalato, ma è stato denunciato per istigazione a delinquere. Se violate le nostre case, ma è vecchio, l'hanno già quindi, denunciato per istigazione a delinquere. Per la pace di tutti, non entrate nel nostro territorio oppure tirate di lì. Sì, però Davide, se devi citare una cosa, citala bene, perché ti assicuro che è vecchia. Comunque. Non leggerlo la vecchia, vecchia, vecchia, vecchia, vecchia, vecchia, vecchia, Massimo da Bologna, vai. Grande non leggerlo, che l'ha rimessa in sì, buonasera, sono mi sentite? Sì, sì, dimmi. Buonasera a tutti. No, io volevo intervenire riguardo alla questione del salva banche, l'ennesima porcata che hanno fatto coralmente banche, governo che io poi dopo mi sono sentito un po' coinvolto direttamente perché in famiglia da me molte persone con i titoli che i banchieri gli hanno consigliato di comprare al tempo quando c'era la lira hanno perso milioni di lire, quindi proprio io di queste cose qua ne so parecchio, ecco. E io voglio dire una cosa però, per anni questi qui hanno proposto mutui agevolati in cambio di acquisto di obbligazioni straordinarie, quindi si sono presi i soldi delle obbligazioni, che cos'è che hanno fatto? E la gente che cos'è che ha pensato? Ma abbiamo il mutuo agevolato. Vabbè, abbiamo... allora... E allora io mi chiedo, ci guadagniamo pure perché le obbligazioni straordinarie possiamo avere una vendita ed è un investimento meno rischioso delle azioni ordinarie, così? Poi di colpo questi si trovano nella merda totale e la prima cosa che il governo fa, la prima cosa che il governo fa è stata quella di azzerare il valore delle obbligazioni in mano ai risparmiatori, la prima cosa che ha fatto. Ora io mi chiedo, questi qui, con tutti quanti soldi che vanno in pascato... Ma l'ha fatto perché la banca era fallita, no? No, se non l'avesse fatto... scusa, la banca era fallita? Certo. E quindi era un modo per salvare la banca, per salvare alcuni posti di lavoro. Comunque, ragazzi, adesso mi pare. Diciamo la verità: qui c'è qualcuno che non ha vigilato nel modo in cui sono state diffuse queste obbligazioni. Tema. Andiamo a parlare di altre cose. Agostino da Napoli, possiamo diventare focus economia. Va bene, le testimonianze, la gente incazzata, è tutto, però calma, Agostino, dai. Ciao, ciao a tutti e due. Niente, giusto per stemperare un po' gli amini e parlare un po' di cose diverse, no? Vorrei ritornare sempre alla cosa del vegano sì, vegano no, sì. Questa cosa che ormai è d'attualità, no? È un po' ci bombardano ogni giorno questa cosa. Niente, vorrei parlare di una cosa. Noi tutti parliamo semplicemente di se è giusto o se è sbagliato mangiare carne. Alla fine a noi non ce ne frega un cazzo se è giusto o se è sbagliato. Tutto qui. Però la cosa che vorrei far capire un po' a tutti è semplicemente che fondamentalmente si fa abuso di carne. Cioè, il Ma si può fare abuso di carne come si fa abuso di tante altre cose, dai. No, su. Chi ti parla comunque è uno che la carne ne mangia pure tanto. E vabbè, ma come non va mangiata tanta carne come non va mangiata tanta Nutella, come non si può mangiare tanta, pane, eccetera, no, eccetera. Non è dai. Che fa male, no, non è che fa male. Io credo che probabilmente il problema sia un altro, cioè tutte queste aziende che ci lavorano con la carne, no? Sì, sì. Tipo grandi colossi. Infatti, guarda, che i vegani o i vegetariani che in questi giorni mi hanno attaccato non capiscono una cosa, che io sono per la libertà, ma sono consapevole dei rischi che ci possono essere nella lavorazione della carne, negli allevamenti, eccetera. Sono assolutamente consapevole, però a differenza di loro che giudicano gli altri e li considerano degli assassini, io sono per la libertà, ma anche per la libertà, come dire, dell'informazione, anche per la circolazione delle informazioni. Per carità, penso che Veronesi da un certo punto di vista abbia anche ragione, per cui questi qua non capiscono un cazzo quando mi attaccano e dicono che sono così disinformato, ma nella maniera più assoluta. Anzi, mi sono anche comprato il libro di Rifkin, famoso di qualche anno fa, sulla carne e sulla fine della società carnivora, secondo lui. Però io sono per la libertà, non sono come quelli che dicono: certo, adesso tu inquini il pianeta, certo, porti la pelliccia, sei un assassino. Questi sono i nazi vegani, e sono tanti, tantissimi, e ci rompono i coglioni, sono illiberali, sono nazistoidi. Una società dominata da persone così a me fa paura, perché sono capaci di qualsiasi cosa, sono capaci di toglierti la libertà. Questo è evidente, è chiaro, sì o no, Savino, dai. Ah, Savino da Bari, Savi, che mi devi dire? Ah, Savino da Bari. Giuseppe, dimmi Savino, dimmi. Giuseppe, io ti ho chiamato. Che cazzo hai chiamato a fare? Dai, dimmi. Perché qui ho visto che le banche truffano i soldi alla gente. Vabbè, questo lo abbiamo visto. Voglio dare un consiglio a queste persone che sono state truffate. Sì. Voglio dare un consiglio. Dai un consiglio, vai Savino. Loro non si devono ammazzare. Sì. Devono fare una cosa piuttosto. Che devono fare? Devono vedere chi è il responsabile. E poi? I politici, i banchieri, e chi per loro, il padre del Renzi. E devono ammazzare loro, non si devono ammazzare loro. Però, Savino, tu stai dicendo una cosa. E poi 60 milioni di italiani, li mettiamo l'avvocato Coppa e l'avvocato Buongiorno. E io sono il primo a partecipare. Questa è una buona idea, però. Tu stai dicendo... scusa, Nicola, però, sì, Nicola Savino, un altro, scusami. Savino d'Andria, non Nicola Savino che saluto. Nicola, ovviamente. Sono Savino d'Andria. È un po' diverso. Allora, subito tu a fare lo snob, Nicola. Decisamente. Perché questi non possono truffare la gente in questo modo. Questi bisogna aprire il carcere della Sinara, dagli 416 bis e metterli i banchieri in generale, tu stai dicendo un'altra cosa. Giuseppe ti voglio bene. Questo sono qui a Parenzo, non rompere i coglioni, Parenzo. Giuseppe, ti voglio bene, tutti nel calcio della Sinaria, bisogna tutti chi dice? Tutti nel calcio della Sinaria, anche Crociani, anche Napoletano, nel calcio della Sinaria, nel calcio della Sinaria, pure Napoletano, anche con quei titoli mi mette ansia. Tu invece fai i giornalisti, dovevano mandare la cava. Mamma mia, dovevano mandare. Ma che l'attacco, bisogna mettere la Sinaria, pure lui. Vai all'attacco, Savino, che pure lui. Parenzo, ma che ce l'hai a fare a fianco a te quelli? Alla Sinara tutti. Hai ricevuto la 24 ore, alla Sinara tutti. Cos'è sto fate presto? A me una banca. Alla Sinara pure lui. Cruciani, ma fai star zitto a quell'imbecille, che quello è l'imbecille. A me una banca, mi ha fatto un mutuo. Mi fai sentire? Mi fai sentire? Mi stai a sentire? A me una banca mi ha fatto il mutuo. Io, senza avvocato e senza niente, l'ho fatto rinnovare il mutuo. Perché gli ho mandato a dire: non faccio nome della banca. Gli ho mandato a dire che poi per ammazzare la gente impugnata la pen, io per ammazzare la gente impugno la P38. L'editoriale sulle banche del Sole 24. Ma hanno mandato due persone da Milano con la pistola. Bisogna andare in banca con la pistola. Che e lo devono scrivere su 24 ore con la pistola, con la pistola, Napoletano, perché non lo scrivi con la pistola in banca? Però scusa, hai detto una cosa grave, Savino, hai detto che quelli responsabili della vicenda delle banche vanno ammazzati, hai detto. Ma sì, ma è possibile. Ma questo è truffo la gente così, e poi quando la gente deve portarli in banca, noi ce ne andiamo. Portare i soldi in banca per la tracciabilità, devo portare sto cazzo in banca. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocracy. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.